l'altra Europa. 6 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia in diretta oggi dal Festival dell'Economia di Trento, l'altra Europa Live. Siamo in Piazza Pasi, postazione di Radio 24, cuore del festival, festival che noi oggi racconteremo a nostro modo, quindi con tracce di Europa al festival, tracce di Europa in Trentino, una giostra di ospiti e di voci, di protagonisti del festival e di Trento. Con me in studio do subito il benvenuto ad Eva Giovannini. Ciao Eva. Ciao, buongiorno. È scrittrice, giornalista, autrice del libro Europa Anno Zero. Ieri hai moderato Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione, quindi andremo a scoprire cosa hai colto, e poi l'Europa dei giovani, l'Europa degli Erasmus, rappresentata dal presidente di Erasmus Studio Network, Miguel, qua ci provo, Miguel Angel Palacio Vilches. Guarda, ti do la possibilità di dire il tuo nome. Miguel Angel Palacio Vilches. Sì, già più passionale. Ciao Miguel, intanto ciao. Ci fa uno spagnolo presidente di Erasmus di SN qui a Trento. Cosa ci fai a Trento? Beh, perché l'anno scorso ho fatto qua l'Erasmus, mi è piaciuta la città, poi mi è piaciuta l'Italia e quindi ho deciso di studiare qua per rimanere e lavorare qua. Uh-huh. Andremo a raccontare cos'è Trento per i ragazzi Erasmus, ma oggi all'Altra Europa c'è anche musica live per raccontare le migrazioni e non solo. Lo zaino è una fotografia, tanta speranza e un po' di nostalgia. Sono partito dalla mia terra, sono scappato per non fare la guerra. Inshallah, l'Europa ci accoglierà. Inshallah, la cercheremo più in là. Welcome and welcome, benvenue, c'era scritto sui cartelli blu. Ma allora tutta questa polizia, perché ci vuole portare via. Inshallah, l'Europa ci arriverà. Inshallah, però di certo che Leti non si fermerà. Sognavo un paese ospitale, con una casa vera, gente diversa, e poter dormire di sera. A riprendere il viaggio c'è un'altra frontiera, qualche miglio più in là. Sono i Blue, The Rockers Band, Fernando Ianeselli, Paolo Barelli, Paolo Cristofolini, Andrea Lorusso, una band creata, una band di medici trentini. Ciao Fernando, benvenuti. Ciao Federico. Allora, vi ho voluto ospiti perché avete questo progetto molto particolare. Il fatto già che siate medici, che suonate, è bella come incipit di partenza. Poi di fatto avete scritto un'opera rock sull'immigrazione. Sui migranti, credo sia la prima e unico concept rock fatto su questo tema, ed è nata qualche mese fa. È nata dall'immagine del bambino di Alan Kurdi, che poi ho conosciuto il padre, e della lunga fila di binari che portavano i migranti lungo le frontiere. Questo è stato l'incipit che mi ha fatto venire l'idea di comporre un'opera intera, che si compone in tre parti di fatto. La prima parte narra le vicende da cui è originata questo grande esodo, quindi la guerra e tutto quello che è connesso. La seconda parte invece riguarda il lungo viaggio, appunto, lungo le frontiere d'Europa, lungo il mare, con i barconi e lungo la rotta balcanica. E la terza parte, un po' più politica se vuoi, racconta la reazione degli europei, di noi europei, con tutte le contraddizioni, la retorica e quello che ne è venuto fuori. Sarete un po' la colonna sonora di questa puntata, quindi andremo ad ascoltare altre storie. Eva, storie che tu conosci molto bene, storie che tu racconti, c'è bisogno anche di questo, forse di narrative diverse per raccontare una stessa attualità, una stessa contemporaneità. Ah, sì, soprattutto c'è bisogno, secondo me, di non dimenticare mai che dietro la fotografia dei numeri, no, che devono essere comunque sempre comunicati con precisione, eccetera, c'è da ricordarsi che insomma poi ci sono tutte storie, e quello che a noi sembra, diciamo, l'immagine vista e rivista degli sbarchi a Lampedusa, io lo dico sempre, però lo ritengo fondamentale, per loro è sempre la prima volta, quindi sono nomi, sono cognomi, sono storie tutte diverse, anche se a noi ci sembrano tutte uguali. E recentemente, insomma, c'è una storia che ho raccontato anche per chi mi segue, insomma, sui social network, che è la storia di Anna Kodmeni, che è una ragazza siriana di 22 anni scappata 6 mesi fa dalla Siria, dove ha lasciato la sua famiglia, dove ha lasciato, quello purtroppo un po' prima di 6 mesi fa, la sua facoltà di architettura, ed ha intrapreso da sola il percorso verso l'Europa, il suo sogno. Percorso interrotto bruscamente a un certo punto, dopo aver superato la prova, diciamo, come se fosse un giochi senza frontiere dell'orrore, la prova del barcone, arrivata finalmente in Grecia, arrivata al confine macedone, è stata bloccata 2 mesi nel fango di Idomeni. Sono riuscita a sentirla tutte le settimane, ha provato, è stata avvicinata più volte da dei criminali che le hanno offerto, insomma, metodi abbastanza pericolosi per scappare, poi alla fine con un escamotage è riuscita finalmente a fuggire, è arrivata in Germania e in 3 settimane, 2 giorni fa, ha ottenuto per 3 anni la cittadinanza. Quindi, insomma una storia a lieto fine, una ogni tanto. Di questa Europa, l'Europa delle frontiere, dei confini, l'Europa che respinge, l'Europa che accoglie, poi c'è l'Europa degli Erasmus. Miguel, con Erasmus Student Network cercate di vivere, di far vivere questa Europa? Sì, cerchiamo soprattutto di accogliere gli Erasmus, di farli anche parte noi diciamo, la nostra famiglia, così anche noi ci arricchiamo personalmente con loro, impariamo nuove cose. È stato un anno tragico per gli Erasmus, insomma sappiamo delle tragedie che ci sono state, però gli Erasmus sono stati tra i primi a reagire, ma sto pensando dal Bataclan in poi, comunque fare comunità, fare famiglia, come hai detto tu. Innanzitutto vorrei dire che mi dispiace per quello dell'incidente, dirò che noi quello che facciamo è prendere, far conoscere soprattutto adesso l'Italia, qua noi di essere in Italia, farli anche per dire una parte di noi, perché anche è bello quando passa il tempo che ti parlano, ti dicono anche di venire a casa tua, di andare a trovarli o fare le vacanze insieme. Quello che c'è dopo l'Erasmus, Trento è una città europea? Secondo me sì. Secondo me è una città europea perché poi anche c'è un sacco di scelta, puoi fare anche i corsi in inglese, sia in inglese che in italiano, poi anche la gente è molto aperta. insomma, ogni tanto devi fare giocoliere con le parole, capisco, ma sei assolutamente perdonato. Grazie davvero Miguel, poi incontreremo durante la puntata altri studenti Erasmus che appunto stanno vivendo la loro esperienza qui a Trento. Noi ci fermiamo, il traffico poi ancora in diretta con l'Altra Europa da Piazza Pasi, Festival dell'Economia di Trento. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta L'Altra Europa. Thank you. altro posto, una città. Sfiorerò un nuovo pianoforte, senza l'odio ed i fantasmi della morte. Ascolteremo insieme il ritmo della libertà, ma ritornerai forse tra qualche primavera a respirare il vento caldo di Yarmouk e quella polvere sottile della sera. Ti sembrerà più lieve. Suona una canzone, può sfidare anche la paura e accompagnarti nel cammino verso amare e non fermarti mai. E non fermarti più, tanto il tempo non aspetta. In un mondo che cambia troppo in fretta, alla fine sentirai una nota un po' più dolce, è la nota del tuo cuore. È la musica che non si ferma mai. Quo Vadis, storie di migranti ancora, l'altra Europa live da Piazza Pasi, Trento, con me in studio Eva Giovannini. Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione, era il titolo, forse anche un po' una provocazione dell'incontro che hai moderato ieri. Quali sono le cose che non capiamo, noi che non andiamo sui luoghi, noi che... quello che vediamo c'è comunque filtrato dalla televisione, c'è filtrato dai giornalisti, cosa non arriva? Che altro cosa ci arriva? Cioè, noi abbiamo la sensazione che questa sia un'invasione, no? O comunque così ce la raccontiamo. Pensate che gli immigrati sono circa l'8% della popolazione e secondo delle stime che in questo libro appunto vengono riportate, le persone pensano che siano il 30%. E di questo 30% in realtà... la percezione che i musulmani siano il 20% di questo 30%, quando invece sono solo il 2%. Quindi ciò che ci arriva è totalmente diverso da ciò che accade realmente. E se pensiamo che in Europa siamo un continente di 550 milioni di persone e stiamo parlando insomma di un milione più o meno arrivato lo scorso anno, questo non vuol dire che non sia un problema da risolvere, che non ci sia da mettersi a tavolino e capire come farlo in maniera un po' meno goffa e assurda di come l'Europa l'abbia fatto negli ultimi 12 mesi, ma stiamo ben attenti alle parole che usiamo, e lo dico da giornalista, insomma, pensando appunto a cosa si dice quando si nominano questi fenomeni. E poi ovviamente c'è l'attenzione che dobbiamo sempre fare anche ai numeri, perché è vero, prima abbiamo raccontato le storie, però i numeri sono importanti. La percezione della criminalità, ad esempio, che è un tema che va molto di moda, no? Gli stranieri sono criminali. Ebbene, negli ultimi anni, fonte Ministero degli Interni, pensate che le denunce per reati commessi da italiani sono aumentate del 28%, quelli commessi da stranieri diminuite del 6%. E con questo, diciamo, vi lascio. No, come riflessione. I luoghi della crescita, il titolo del festival di quest'anno è... in questo caso, quando si parla di immigrazione, la crescita fa paura, no? È una delle armi anche alimentate, utilizzate dal populismo. Stefano, la parola crescita fa sempre paura? Fa paura quando la leggiamo solamente come estensione, come se fosse una specie di sviluppo quantitativo muscolare. Crescita può essere anche crescita qualitativa, può essere crescita reticolare, può essere crescita puntiforme. La verità è che noi abbiamo un modello univoco di crescita, forse legato al nostro corpo, no? Perché poi alla fine la metafora organica è quella che ci schiaccia sempre. Do il benvenuto a Stefano Boeri, architetto urbanista, che è qui anche lui al Festival dell'Economia proprio per parlare dei luoghi di crescita, tra l'altro con un titolo molto bello, Rigenerare, che è una parola... mi viene a dire parola nuova, perché viene utilizzata con questa nuova accezione da un po' di anni, ma soprattutto sei, Stefano, da qualche anno ti stai impegnando anche per una nuova narrativa dell'Europa, e credo che sia un bel intreccio tra quello di cui parli, quindi la città, che di fatto è la nostra quotidianità, e l'Europa, che è questa entità grande. Sono europee queste città che stiamo cercando di vivere, di costruire, di cambiare? E come deve essere, secondo te, una città europea? Ma allora, innanzitutto l'Europa è oggi, lasciami giocare un po' sulle parole, quasi come un'unica città, no? Perché in effetti se guardiamo un'immagine dal satellite notturna, beh, è abbastanza impressionante. Le coste, le principali vallate, perfino le grandi aree, diciamo, naturali sono oggi circondate da conurbazioni. La Svizzera è quasi un grande parco ormai. E questo è una cosa che conosciamo, che sentiamo, perché in fondo anche nella vita quotidiana noi ormai ci spostiamo con grande velocità e la viviamo in un ciclo temporale quotidiano, l'Europa. Però l'Europa è un continente particolare fatto di città, come dicevi, dove non ci sono grandi megalopoli, per fortuna io dico, ma ci sono migliaia e migliaia di città. C'è qualcosa che dia queste città? Sì, allora per tornare al discorso che dicevi tu prima, io penso che per esempio la città europea è una città che è sempre stata capace di assorbire culture, spazi, anche proprio architetture che provenivano da altri continenti, in qualche modo di metabolizzarle e poi di rilanciarle, perché in fondo, come dire, il bazar piuttosto che alcune anche tipologie come la corte nascono da uno scambio storico con altri luoghi del mondo. Quindi la città europea è una città che tra l'altro cresce su se stessa, che non passa mai da grandi fasi di demolizione, è una specie di palinsesto, no? Palinsesto fisico ma anche sociale, ma certo. Questa è la cosa stupenda di nostre città. E la rigenerazione è un po' il futuro di queste città, nel senso non solo una crescita smodata, ma proprio un cambiamento di concezione stessa dello sviluppo delle città. Sì, io penso che sia una chiave importante. Rigenerazione vuol dire anche sostituire dei pezzi di città che sono ormai vecchi, obsoleti, degradati, vuol dire recupero, vuol dire recuperare gli spazi vuoti. Noi abbiamo milioni di metri quadri di uffici vuoti in Italia che sarebbero perfetti per nuove modalità di residenza, per fare un esempio, sperimentali, pensare a degli spazi di laboratorio residenza o di artigianato residenza. Rigenerare vuol dire intervenire su un pezzo di città, diciamo in modo attento, sensibile, magari non con il bisturi, ma cercando di usare le energie che ci sono in quel quartiere, in quel contesto. Questo vuol dire. Poi dopodiché ogni tanto va anche portata l'architettura nuova. Io sono un architetto, credo che noi abbiamo 12 milioni di edifici in Italia. Di questi 12 milioni, 8 sono stati costruiti tra il 45 e il 90, e di questi una parte enorme sono ormai obsoleti, cioè hanno un costo di manutenzione eccessivo e non riescono neanche più a rispondere alle domande abitative. Beh, bisognerebbe costruire un po' di nuova architettura. Stefano, un architetto quando vede questi centri per rifugiati, centri per immigrati, cosa pensa, al di là della disperazione, al di là del lato tragico? C'è anche un occhio tecnico? Cioè, si potrebbe fare qualcosa di più per alzare la qualità della vita, della sopravvivenza di queste persone? Io penso che per esempio noi abbiamo, insisto, migliaia e migliaia di metri quadri di spazi vuoti, penso ad appartamenti, sfitti invenduti in tutte le città italiane, che con un poca attenzione attraverso un'agenzia pubblica che però mette in moto le proprietà private, perché sono prese, potrebbe dare modo a molti, diciamo, cittadini in transito, perché poi dobbiamo mai dimenticare che molti di questi immigrati sono cittadini in transito, cioè che non hanno pianificato di stare in Italia, ma che si muovono, attraversano il nostro paese, di avere un luogo decente. Questi campi sono spesso, questi centri sono spesso, come dire, luoghi desolanti e dove viene fuori in modo crudele la nostra incapacità di pensare, di concepire un'ospitalità diversa da quella del sempre del raccogliere, dello schedare. E questo è molto triste. Poi voglio dire, sappiamo bene che questo è un fenomeno inarrestabile, perché ci sono, come dire, aspettative di vita di 20 anni maggiori per chi proviene spesso dai paesi del sud, o un'aspettativa di reddito 25 volte. Sono dati che ci fanno capire che non è un fenomeno che potremo controllare in futuro. Quindi Eva? Due settimane fa ero a Lampedusa e il sindaco di Lampedusa, Giuse Nicolini, ospitava 20 ragazzi di Sciences Po di Parigi, del corso di urbanistica, proprio per un laboratorio sul campo, sull'isola, per capire come gli spazi impattino sulle migrazioni e viceversa. Quindi certo, studi assolutamente interessanti proprio nell'ottica di come le persone che arrivano, che spazi trovano e come possono essere trasformati. Tra l'altro tu hai frequentato anche, insomma, i quartieri parigini al seguito delle... sono città che stanno cambiando? Sì, cambiano a ritmi veloci, eppure in alcune parti sembrano non cambiare mai, cioè ci sono alcune banlieue che sono state talmente dimenticate negli ultimi 10 anni, diciamo che poi, insomma, come sai, mi sono occupata a lungo dei movimenti delle destre europee, e tanto da essere quartieri, penso a Clichy-sous-Bois, dove voglio dire la maggioranza delle persone è immigrata, islamica, eccetera, dove alle ultime elezioni il primo partito è stato Front National. E quando sono stata lì e ho visto questi giganti, palazzi giganti, questi, diciamo, agglomerati urbani dove tutto c'era tranne che la persona, ho pensato che forse questo voto non era così sorprendente. Stefano, oggi alle 17 incontro nella sala filarmonica, sostenibilità, biodiversità, ecologia, tre sfide per la crescita. Credo che proporrai anche un viaggio attraverso varie città per fotografare la situazione con questi tre paradigmi. C'è una città faro, c'è una città che dobbiamo tenere d'occhio perché è particolarmente avanti? O... Sì, ma ce ne sono tante. Per esempio Parigi adesso ha lanciato una campagna, Hidalgo, il sindaco, ha fatto davvero un'operazione importante sul, diciamo, sui tetti verdi, cioè sull'aumento delle superfici verdi nelle città, anche quelle verticali ma anche quelle orizzontali dei tetti, e questa cosa l'ha fatta coinvolgendo tutti gli studi di progettazione, una serie anche di istituzioni private, quindi è una sfida, come dire, combattuta con una grande visione. Ma poi ci sono città che stanno facendo cose straordinarie in Nord Europa, ci sono città come Singapore che può non piacerci per alcuni punti di vista, ma da altri punti di vista ha fatto delle cose straordinarie dal punto di vista della biodiversità. Ma è una sfida aperta. Ma tu hai l'orto in terrazza? Questa domanda da sempre te la voglio fare. No, no. Io ho una specie di ossessione per gli alberi, ma sono un disastro per tutto il resto del mondo vegetale. Questo ci piace. Un grazie a Stefano Boeri, grazie. Un grazie a Eva Giovannini. Questa è l'Altra Europa. Ora ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua in diretta. Musica live, altre voci. L'Europa, che ci piace raccontare? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. L'Altra Europa. Porto di Sirte sembrava brillare per noi. Andremo oltre mare sfidando la morte, adesso riposa se puoi. Il mare era calmo, la notte era fredda, mi prendi la mano, tremavi anche tu. Poi venne la barca dai 100 colori, dai sali più in fretta, c'è posto laggiù. Sognavo mia madre, rimasta a Nalut, tra il grano e la strada, che non rivedrò. Ci dicevano tutti, la barca è sicura, è costata qualcosa di più. Non piangere a Lima, non avere paura, il cielo è ancora più blu. Eravamo a 6 miglia dalla costa italiana, luna sul ponte d'improvviso sparì. Ti ho cercata nel buio, ma eri già lontana, poi l'urlo ed il vento, è finita così. Sognavo mia madre, rimasta Nalut, tra il grano. l'oceano è la strada che non rivedrò. Quo vadis, storie di migranti, Fernando Ianeselli, voce, autore dei testi di questa opera rock che racconta la nostra attualità. Fernando, quali sono le reazioni? Voi suonate molto in questo territorio, suonate molto in regione. Sì. Per esempio, il problema della migrazione, che appare lontanissima, poi è vicinissimo, perché insomma l'attualità la conosciamo, leggiamo i giornali. Quali sono le reazioni delle persone? Ma le reazioni rispetto al tema sono quelle che conosciamo tutti, direi una molta retorica, molte contraddizioni. Probabilmente dobbiamo settarci un po' meglio a livello sociale e acquisire una capacità di lettura, di riflessione rispetto a questo tema, che è un'epopea, una vera epopea, io l'ho definita così. Ce ne sono stati in passato, ma questa è diversa da quella del passato, perché è sotto gli occhi di tutti, attraverso i media, attraverso l'immediatezza dei drammi. Quindi insomma non si può dire non sappiamo. Non si può dire. Assolutamente. Grazie, poi continueremo a seguire con un altro pezzo. Intanto diamo anche i contatti, che è facebook.com, ovviamente BRB Quo Vadis, la vostra pagina, e quovadisconcerti@gmail.com per eventuali contatti. E adesso due storie per raccontare il Trentino, per raccontare l'Europa in Trentino, per raccontare la crescita da due punti di vista apparentemente molto lontani, ma che in verità, a mio modo di vedere, sono anche vicini. La crescita legata alla natura e all'arte, la crescita legata all'innovazione e alle start-up. Do il benvenuto a Emanuele Montibeller, direttore artistico di Artesella. Ciao Emanuele. Ciao, buongiorno. E Nadia Bobova, che ha ideato e fondato Kiss My Bike insieme a due colleghi, di cui ti faccio dire a te il nome perché sbaglierei, non mi pare bello. Sì, buongiorno a tutti. Altri due sono Ivan Minakov e Vladimir Harkevich. Nadia, parto proprio con te. E che cos'è Kiss My Bike? Kiss My Bike è un sistema antifurto studiato appositamente per le biciclette, perché in Trento, ma anche in tutta l'Italia e anche in tutta l'Europa, ovviamente il problema dei furti di biciclette è enorme, e abbiamo subito 4 furti e poi abbiamo cominciato a pensare come proteggere le proprie biciclette. I ragazzi sono due ingegneri, quindi hanno ideato questo dispositivo elettronico che viene montato all'interno della bicicletta e nel momento del furto segnala l'accaduto al proprietario attraverso l'applicazione mobile, e quindi il proprietario può vedere la posizione della bicicletta in diretta dal suo smartphone. Ma voi eravate amici e colleghi, immagino? Sì. Anche per capire la genesi di una startup. E avete detto, facciamo una startup e cerchiamo l'idea, o al quarto furto è venuta l'idea e quindi avete deciso di realizzare una startup? Eravamo amici, siamo arrivati tutti e tre a Trento tanti anni fa per fare il dottorato di ricerca in vari settori, e poi sì, ecco, la tragedia di 4 biciclette ci ha portati a creare una nostra azienda. Tra i 10 startup più innovative nel settore degli open data, cosa vi ha dato l'Europa fino ad ora? L'Europa ci ha dato 100.000 euro, che diciamo è un buon contributo, e speriamo di poter arrivare al mercato, di fornire questo valore ai ciclisti di tutta l'Europa. Ecco, qui l'altra faccia di questi 100.000 euro, come si fanno a chiedere? Cioè, qual è stato il percorso che avete fatto? Occorre tanto lavoro, ma occorre anche l'assistenza da parte delle varie istituzioni. Infatti vorremmo ringraziare Trentino Sviluppo, Hub Innovazione Trentino, che ci sostengono in questa avventura con i consigli, con coaching. Si scrive un progetto, si presenta e poi si spera per ottenere i fondi. Kissmy.bike è il sito di riferimento. Vi hanno rubato altre biciclette nel frattempo? Purtroppo no. Ma perché state già testando? Cioè, è già in produzione il dispositivo? È in pre-produzione. Speriamo di essere pronti per la fine del 2016. Perfetto. Ti sta guardando con occhi strani Emanuele Montibeller. Emanuele, ti hanno rubato la bicicletta? Non ho la bicicletta. No, non hai la bicicletta. Sai, in montagna le salite sono abbastanza pronunciate, visto la mia mole, credo che a me è uno strumento avverso. È uno dei musei, possiamo definire un museo, no? Una mostra, come la chiamate? Così dicono. È un bosco, dove succedono delle cose strane. È un progetto, credo, unico sicuramente in Europa per la sua natura, e natura in questo caso è la parola giusta. Emanuele, facci vedere Artesella via radio, che cos'è? Allora, Artesella è un luogo magico di per sé, la Val di Sella è un luogo meraviglioso che a tutti consiglio comunque di vedere al di là delle nostre opere d'arte. Le nostre opere d'arte, la specificità è che invece ci vengono tutte rubate dalla natura, cioè scompaiono dopo un periodo che sono state con noi, scompaiono. Per cui questo cambia completamente il valore non è più l'opera d'arte, ma il valore è la qualità del tempo che tu vivi in questa vita. E non è il possedere, la qualità economica, se vogliamo dare all'opera d'arte, ma è il condividere dei momenti importanti della propria vita. Questo è quello che noi cerchiamo di fare. E fino adesso, visto che ci saranno i luoghi della crescita, ma il nostro forse è un luogo della supercrescita. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un aumento percentuale del 700%. Di visitatori? Di visitatori, di giro di affari, di occupazione, di tutta una serie di indicatori economici, come vengono chiamati oggi. Quindi sono opere d'arte che di fatto cambiano col tempo, perché a volte sono vive, quindi diventano altro, a volte appassiscono, cioè comunque la natura vince sull'opera, quindi spariscono, c'è un cambiamento continuo. Assolutamente sì, nel senso che tu ogni volta che vieni a Artesella trovi qualcosa che non c'è più e qualcosa che è arrivato, ed è esattamente il nostro lavoro, per cui non è tanto quello di avere l'opera d'arte, ma di coltivare, come diciamo noi, l'arte contemporanea. Beh, questo lavoro che ormai avviene da 30 anni, cioè dal 1986, che è un anno fondamentale perché la natura e la questione ambientale è diventata la prima risorsa importante per tutto il mondo, che è l'anno di Chernobyl, nel quale anno tutti quanti noi abbiamo percepito concretamente che in qualsiasi luogo del mondo si può distruggere questo mondo, e abbiamo abbassato la stina, o alzato, come preferite, con il nostro rapporto con l'infinito. Tutto quello che ci sta intorno probabilmente non siamo più così sicuri che duri oltre alla nostra vita. I nostri genitori sicuramente non lo pensavano minimamente. Comunque gli artisti arrivano da tutto il mondo, e dall'Europa abbiamo avuto e abbiamo molto. Cioè, perché fate parte anche di una rete europea, giusto? Sì, noi facciamo parte di una rete, allora, di varie reti europee. Una, siamo tra i fondatori di ELAN, è una rete europea di land art, assieme allo Yorkshire Sculpture Park in Inghilterra, assieme ad un bellissimo progetto in Francia che è il Cammino, arrivare nei rifugi artistici dove Andy Gosworthy ha costruito delle opere d'arte, piuttosto che a un progetto in Germania dove ha fatto un intervento con gli agricoltori, cioè quello di declinare il territorio, la natura, come luogo di ricerca e come luogo di nuova interpretazione dei linguaggi che arriveranno. Ecco, allora fa parte di una rete di questo tipo. Mi distraggo un po' perché vedo molta gente fuori che mi conosce e mi guarda. Il bello della radio è essere in mezzo alla gente, per cui ogni tanto perdo il filo. Comunque, detto questo, l'altro grande network che abbiamo messo assieme, noi, il Louvre, la National Gallery, il Gemäldegalerie Galleria a Vienna, è quello di come si possono percepire i luoghi di cultura, quali e le industrie culturali. I grandi musei possono ancora essere luoghi dove suscitano emozioni, visto che noi siamo un luogo delle emozioni. E questi grandi luoghi in cui le persone vanno a vedere sostanzialmente tre cose, cito il Louvre, la Mona Lisa, la Nike e la Venere di Milo. Tutto il resto passa in secondo piano, ma soprattutto se osservi i visitatori, nessuno si guarda e parla più. L'arte è un luogo di socializzazione, o lasciamo solo ai supermercati che diventino luogo di socializzazione? È una bella sfida, ma è piacevole. Comunque, mettere la natura come luogo per condividere le idee del futuro, credo che sia un'esperienza straordinaria che ci è capitata forse per caso. Ma insomma, ma la state ben sviluppando e ben tutelando anche, che insomma sono due azioni che devono assolutamente convivere. Artesella.it, il sito di riferimento. Grazie Emanuele. Risposta sintetica: c'è un periodo migliore di altri per venire a visitarlo? Quando non ci sono io e ottobre. Perfetto, ok, sono due ottime indicazioni. Grazie Emanuele, saluto anche Nadia. Nadia, prima però di congedarti, è facile aprire, gestire, sviluppare, far crescere una startup in Italia? Non è facile, però si può fare. Con un giusto impegno e la forza di volontà si fa tutto. Insomma, quindi è un messaggio di incoraggiamento, vero, il tuo? Sì. Okay. Siamo sempre in radio, quindi non possiamo vedere la sua faccia. E vabbè. Kismai.by, che è il sito. Grazie ancora. Il traffico, ci fermiamo col traffico, poi ancora qua per l'ultima parte dell'Altra Europa. L'Altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta, l'Altra Europa, l'ultima parte della puntata, di questa puntata live dal Festival dell'Economia nel nostro studio, qui in Piazza Pasi, una giostra di ospiti. Sto prendendo tempo anche per mettere i microfoni e salutare, dare il benvenuto a Valentina Piffer, segretario generale del GECTE, che è il gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera. Ciao Valentina. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao, mi chiamo Federico. Stefano da dove esce? Stefano era l'altro fuori. Ok, mi ha detto la prima volta che vado in radio e quindi insomma ti è tutto concesso. Valentina, che cos'è il GECT? Beh, il GECT, come giustamente hai detto tu, è il gruppo europeo di cooperazione territoriale. Si tratta di un ente pubblico con diritto europeo che è stato fondato nel 2011 grazie alla volontà delle tre province di Trento, Bolzano e Tirolo di rafforzare la cooperazione fra queste tre regioni. Il nostro GECT, di GECT ce ne sono 54 in Europa, non è l'unico in Europa. E il nostro GECT si chiama appunto GECT Euregio, Tirolo, Alto Adige e Trentino. Quindi questi tre territori che appunto cercate di contaminare dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, dal punto di vista di tanti progetti. Vi abbiamo scoperto seguendo le tracce di un santo, San Romedio, con questo cammino che è stato inaugurato da poco, un sentiero che, come tutti i sentieri religiosi, poi hanno tantissimi indotti anche culturali ed economici. Chi è San Romedio, ma soprattutto come nasce questo cammino? Il progetto denominato appunto Cammino di San Romedio è uno dei progetti del GECT Euregio, nato però dall'interesse, da un'iniziativa privata, un'iniziativa del parroco Martin Ferner e della guida alpina Hans Staud, entrambi tirolesi ed entrambi originari del paese di Taur, dove è nato San Romedio. Si tratta di un percorso escursionistico di 180 chilometri, da percorrere in 12 tappe giornaliere. L'hai fatto? No, non ancora. È proprio un'occasione unica per conoscere la molteplicità e la bellezza dell'Euregio. Questo è proprio un esempio di come l'Euregio viene vissuta anche e supportata dalla cittadinanza. Ma Valentina, quando parliamo di Tirolo, Alto Adige e Trentino, parliamo di mondi molto diversi. Sono più le differenze o sono più i punti di contatto? Io direi che sono più i punti di contatto. Uh-huh. Certo, ci sono delle differenze. La prima è che siamo due stati diversi, quindi con delle leggi diverse, e quindi questo potrebbe ostacolare anche la cooperazione a livello proprio di progettualità. Però grazie alla storia comune che abbiamo, la cultura comune, troviamo molte molte similitudini. europaregion.info è il sito dove tra le mille proposte molto interessanti, anche molto divergenti. C'è anche questa cosa dove ogni mese selezionate alcuni progetti particolari. Esatto. Questo mese, per esempio, c'era il percorso e tra l'altro forse anche Artesella, se ho letto, esatto, bene. Sì. Quindi insomma c'è stata anche, sì, questa combinazione. Andate, sì, a selezionare esperienze di, insomma, che per voi sono piccole vetrine che vanno comunque, esatto, conosciute. Noi abbiamo una rubrica mensile dove ogni mese proponiamo a rotazione fra i tre territori e proponiamo un video del luogo del mese oppure un video della personalità del mese. Sono delle persone che vuoi per la vita, vuoi per la loro carriera, si sono distinte per la valenza euroregionale del loro vissuto. Grazie a Valentina per averci fatto fare questo viaggio, poi insomma facci sapere anche del cammino di San Romedio Live. Assolutamente. Okay. europaregion.info. E chiudiamo, prima di passare alla musica, con due storie, due Erasmus qui a Trento, ve le presento. Guarda, fai un cambio di cuffia così ce l'ha anche lei, proprio facciamo una cosa live, benissimo. Orlan, se non erro, e tu invece non... Salomè, eccole, entrambe francese. Salomè, di dove sei qui a studiare cosa? Sono della Normandia e qui studio lingue. E da quanto sei qui a Trento? Sono arrivata fino ad agosto. Ok, come va? Bene, mi trovo bene. È il tuo primo Erasmus? Sì. Perché hai scelto di fare l'Erasmus e perché l'Italia? Ho scelto l'Italia perché era la lingua che mi piaceva di più. Ho scelto di fare l'Erasmus perché secondo me è una buona opportunità per imparare una lingua e anche viaggiare. Mm-hmm. Ma stai imparando solo la lingua o stai imparando anche altro? Ti sta cambiando questa esperienza come persona? Sì, infatti, quando vai via non sei più con la tua famiglia, impari a essere più indipendente. Orlan, invece tu di dove sei? Della Normandia anche. E stai studiando lingue anche tu? Sì. Come mai hai scelto di fare l'Erasmus? Solo per anche tu, per imparare la lingua o c'è anche altro? Sì, anche per la lingua. Anche per la lingua. E come stanno andando questi mesi qui a Trento? È una città difficile, no? È una città ospitale, infatti, no. Una città molto aperta, una città dove insomma si è abituati anche... Frequentate solo Erasmus o anche studenti non Erasmus? No, io abito con delle ragazze italiane, mm-hmm, quindi anche meglio per imparare la lingua. È complicato vivere con ragazze italiane, no? No. Ok, perfetto, anche qui insomma lo sguardo ha raccontato altro. Grazie davvero per essere state qua questa mattina con noi. Questo è l'Erasmus, insomma, in tutte le sue sfaccettature. Chiudiamo con la musica, con l'ultimo brano proposto da estrapolato da Quo Vadis, Storie di migranti. Fernando, cosa ci proponi in chiusura? E questo è un pezzo dedicato ad Alan Kurdi, il bambino morto che tutti conosciamo, e alla sua famiglia. È morto lui, il fratellino e la mamma, e il padre ci ha contattati e ci siamo messi in contatto dopo che abbiamo dedicato questa canzone alla sua tragica storia. Canzone che andiamo ad ascoltare insieme. Cresciuto a Kobane in un tempo sbagliato, giocando tra le macerie di un paese distrutto e dimenticato. Ma il tuo viso era bello quando ridevi con gli altri bambini, quando eravamo vicini a Kobane. Trovato laggiù, dormivi guardando le onde del mare, forse sognavi anche tu un nuovo pupazzo, una vita migliore. La guardia costiera ti ha raccolto quasi esitando. Ma in quel momento hai salvato anche il mondo. Resterò sempre qui, ora so che il deserto non può avere confini, lavoreremo di più, trasformando quei sassi in strade e giardini, per dire basta alla paura ed alla viltà, e per raccontare la verità. Paolo Barelli al basso, Paolo Cristofolini pianoforte e tastiere, Fernando Ianeselli chitarre e voce, Andrea Lorusso chitarre, una parte della Blue The Rockers Band oggi qui all'Altra Europa Live. Grazie davvero per la vostra prestazione e complimenti, in bocca al lupo insomma per il vostro lavoro. Grazie. Ma un grande grazie anche a tutta la squadra dell'Altra Europa che ha permesso tutto ciò: Alessio Petrucci, Elena Ligios, Filippo Aureggi, Alessandro Longoni. Qui da Trento terminiamo questa puntata da Piazza Pase. Ancora buon sabato, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana. Ciao!